I don't even want to own anything until I can find a place where me and things go together. I'm not sure where that is, but I know what it's like. It's like Tiffany's. I fear the hearts of men are failing on these shores. Been chasing tails and trapping shadows. The whisper lanes and hoods, the conjuring of smoke. We're setting fire to sleepy towns now. Drumming rise, my quarter coiled up and baying. The crackling of wildfires, the breathing figures into life. Now we have enemies amongst us. Through it all, I gave my hand, and through it all. Days will end. Battles for your heart carry on. I draw the line, I hush the sounds you'll never need to know. Old songs and folk tales dying. I lift my hands and fake a mirror for your flames. Set out in crescent ships, bowing to the shores. Fathoms of lost souls below us. I cup this fleet and blow its sails to the end. And this world comes apart in my hands. Through it all I gave my hand. And through it all these days will end. Battles for your heart carry on. I draw the line, I hush the sounds I never need to know. Ecletica che si è aperta con due nomi che capitano spesso da queste parti, perlomeno nelle ultime settimane, entrambi con le novità uscite di recente, ovvero sia Rogue Wave and The Sleeping Years, ascoltati proprio nell'ordine in cui io li ho detti. Invece ora è la volta di una novità, per cui ho bisogno di una premessa legata al fatto come io spesso dica che il genere che viene associato ad un determinato pezzo, ad un determinato disco, ad una determinata band, non è che sia così importante. Quelle che sono importanti sono le sensazioni che ne ricaviamo. Però devo ammettere che nel caso in questione, se non avessi trovato questa indicazione di genere così particolare, probabilmente non avrei sentito la necessità di approfondimento e non avrei scoperto i Bodies of Water, un quartetto di Los Angeles che viene definito indie gospel. Bodies of Water, che sono usciti da qualche settimana per l'etichetta di nome Thousand Tongues, con un album dal titolo Ears Will Pop and Eyes Will Blink, che ci ascoltiamo con il pezzo It Is Familiar. Le prime notizie su di lui mi furono date da Chad King, che mi aveva fatto vedere alcune sue lettere scritte in un riformatorio del New Mexico. Mi interessai enormemente a quelle lettere, perché chiedevano a Chad, in modo così ingenuo e dolce, di insegnargli ogni cosa su Nietzsche,

Caperdoni, in vostra compagnia, Giulio Caperdoni che risponde, e lo fa veramente, all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo da utilizzare nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera di Eclettica, che vi permette di ricevere settimana per settimana le playlist della trasmissione, cioè il dettaglio di quello che vi sentite in trasmissione, la musica, i film e le letture. La musica appena ascoltata da parte dei Dinosaur Junior, un disco uscito il 1° di maggio di quest'anno, che era da qualche mese che mancava dalle playlist di Eclettica, un disco che ha visto il ritorno a casa da parte di Lou Barlow. Oppure la musica, che in questo caso non manca da mesi ma solo da settimane, dalle playlist di Eclettica, degli inglesi The View, il quartetto di Dryburgh che è stato preso per mano da Bobby Gillespie, che li ha voluti con sé per un tour dove i The View accompagnavano i Primal Scream. The View che ci ascoltiamo con Face for the Radio. You have a face for the radio, but I know you like to see it in a show. Claiming to be the next best everything. Which way will you go? You're a little smarter than most of us. You run so fast sometimes, it's hard to see you for dust. Finding some time for you, it tortures me. Which way will you go? Wait, is on a Friday. Spent on Saturday. Lend me a fiver. Won't do that again. Oh, you trust me too strong. You're out against it, a bad. Won't spare you a bite. Superstar wannabe. Said it comes naturally. Cemented in your own feeble way. His train spotting 15 times a week, thinking it's making him oh so unique. PC on summer nights and football in the rain. Doesn't matter how far he is, he's always money for the train. Nothing against you, love in my heart. You're really a nice guy, known it from the start. Your conscience is eager to know where you lie. Pushing your limits, give it up and remember, you can cry. Your arrogance in a bag won't spare you a fight. A superstar wanna be. Says it comes naturally. Cemented in your own feeble way. You have a face for the radio, but I know you like to see it in a show. You can always tell what kind of a person a man really thinks you are by the earrings he gives you. I must say the mind reels.